America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, siamo così, siamo in vicinanza del 2014, gli ultimi giorni dell'anno. Direi che è il momento di fare un po' di bilancio. Cerchiamo di fare un bilancio di quello che è successo nel 2013 e darvi un po' uno spaccato di quello che capiterà nel 2014. Beh, uno dei fatti più importanti, più gravi, più coinvolgenti del 2013 è stato lo spionaggio di Edward Snowden, la crisi dell'NSA, la National Security Agency, una crisi di spionaggio multiplo che partiva dagli Stati Uniti e che è arrivata fino agli ultimi giorni dell'anno, quando persino Putin ha detto: ma io sono così sfortunato, vorrei essere fortunato come Barack Obama, perché quello spia tutto il mondo, poi però alla fine non si preoccupa mai nessuno. Ebbene, la questione della privacy, beh, non è così semplice, perché ci sono anche delle situazioni in cui la privacy, beh, forse può essere violata se questo porta, come dice Barack Obama, alla cattura di un terrorista. Oppure pensate alla protezione, per esempio, di bambini, la pornografia infantile, il traffico di bambini. È un tema che è parallelo in fondo, la ricerca di informazione per proteggere questi bambini. Beh, fino a che punto la si può fare magari in modo anonimo? Ho con me ai microfoni di America 24 un grande specialista di questo soggetto, Ernie Allen, che è il presidente e il capo dell'International Center for Missing and Exploited Children, e ha lavorato per esempio in Kentucky anni fa con la lotta a certe attività criminali. E dunque con lui vorrei chiacchierare proprio di questo dibattito, che è un dibattito piuttosto difficile. Good morning, Ernie. Good morning. Well, it's glad good to have you, thank you, it's great to have you. Ernie Allen è una importante personalità, è qui con noi in studio, è stato intervistato più volte da CNN. So what is the limit between privacy and the need to gather information? Qual è la differenza, il limite fra la privacy e la necessità di avere informazioni? Well, I'm a fervent believer in individual privacy, and I think it should be as broad as possible. However, Ernie mi dice, c'è una grossa differenza. Lui è sempre stato in favore della privacy, ma c'è una grande differenza fra la privacy e l'anonimato. E mi fa un esempio, dice: le macchine, le automobili hanno le targhe, il guidatore guida in totale anonimato, però c'è la possibilità di avere la targa, cioè di avere la riconoscibilità della persona, di risalire a chi guida nel caso ci sia una violazione della legge. Ecco, lo stesso dovrebbe esistere su internet, perché nel momento in cui si può risalire alla persona che ha violato la legge, beh, allora a quel punto riesce a combinare il vantaggio della privacy con quello della protezione della legge, altrimenti la polizia o gli organi inquirenti diventano totalmente inutili. Beh, però siamo un po' arrivati a quello, perché in qualche modo abbiamo visto che c'è lo scandalo della NSA, che poi alla fine si fa quello che si vuole. We are almost there. There is no privacy anymore. There is not, because we've seen what NSA has done. So when there is nothing off limits for monitoring and oversight, there are two concerns. One is that there is clearly a violation of basic privacy rights. Allen mi dice: quando non ci sono dei limiti al monitoraggio, c'è chiaramente una violazione del diritto alla privacy. Ma oltre a questo, troppa informazione può essere controproducente. La polizia ha bisogno di condurre indagini mirate. Infatti, tutte le informazioni in possesso dell'NSA non sono bastate a prevenire l'attentato alla maratona di Boston. Qualche volta, quindi, il desiderio di creare sicurezza causa eccessi che portano in realtà a meno sicurezza. There is a system that allows the law enforcement people to check into the IP of computers that are on porno sites and to see instantly where they are and who is on. Have you seen something like that in practice? I have not. What we have done with law enforcement and with internet companies. Ecco, chiesto ad Allen se non c'è la possibilità di risalire agli IP dei computer che accedono ai siti porno, ne ha conoscenza? Ecco, Allen mi risponde: no, quello che noi facciamo è chiedere alle società informatiche di impegnarsi a rimuovere quei contenuti che sono chiaramente in contrasto con i loro termini di utilizzo, e questo non richiede procedure giudiziarie, non richiede l'intervento del governo. Gli Stati Uniti e le società informatiche sono obbligate per legge a denunciare alla polizia la pornografia minorile sui loro siti internet, queste foto di bambini palesemente abusati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, diteci tutto quel che volete dirci e vi risponderemo. Ed eccoci alla canzone del giorno, siamo all'ultimo giorno dell'anno e per l'ultima puntata dell'anno di America 24 voglio proporvi quella che secondo me è stata la canzone del 2013 dei Daft Punk. Get lucky. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Per il 2014, Get Lucky. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento all'anno nuovo. Goodbye and get going!